blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca, sono Stefano. Volevo raccontarti che ieri nello studio di un collega all'università. Sì, quello che voleva Stefano Morigi e quello che in questo momento sta accadendo a me è un singolare episodio di ribattuto e non so quale sia il problema. È un po' difficile fare una trasmissione in queste condizioni, ma cercherò di farla. Evidentemente c'è un problema tecnico. Lo trovo anche molto divertente, è interessante. Stiamo noi rappresentando al massimo livello quello che consideriamo un limite dei nostri ascoltatori. Spenga la radio, ecco, finalmente hanno spento la radio. Probabilmente adesso mi sto sentendo bene. Bene, facciamo finta che non sia accaduto nulla e ricominciamo da zero. Dico, mi fa sorridere a volte che ci siano persone che parlano di nuove frontiere del giornalismo. Si tratta semplicemente, non so, di colleghi che ogni tanto mettono un tweet con il loro pensiero e quindi usano i social media, oppure altri colleghi che hanno uno smartphone, gli capita di scattare una foto o di fare un'intervista invece che con una pesante truppa al seguito con il loro telefonino. Queste sono le frontiere invalicabili del nuovo giornalismo, il giornalismo che si muove nella rete, cioè la rete è qualcosa ormai di vecchio, che già esiste, come dire, il giornalismo dell'acqua corrente o il giornalismo dell'energia elettrica, è qualcosa che già c'è, vediamo cosa si fa di nuovo. Intanto invece vedo spostarsi il tema di nuove frontiere del giornalismo, come sempre accade in tutte le sperimentazioni che iniziano in maniera incorporea, virtuale, attraverso negoziazioni e transazioni in rete, poi vanno sul piano concreto, il piano reale. La rete ormai è la rete degli oggetti, l'internet delle cose, le cose che sono collegate in rete hanno la loro possibilità di interconnettersi tra di loro, quindi parliamo di oggetti concreti, di stampanti a 3D che creano oggetti, non più di qualcosa legata solo al fantastico mondo del virtuale, come dicono quelli anziani. Beh, il giornalismo di nuova generazione è il drone journalism. Cosa significa? Significa che sono i giornalisti a questo punto, riescono ad espandere la loro capacità di guardare oltre, di vedere, di trovare delle fonti di informazione da trasferire, da mediare, da raccontare attraverso le tecnologie che sono quelle dei droni. Ne abbiamo parlato più volte, i droni sono quei piccoli apparecchi con possibilità di essere telecomandati che, dotati di una telecamera, possono arrivare ovunque. Abbiamo fatto varie trasmissioni sui droni, il messaggio che apriva questa trasmissione era quella dell'amico Stefano Morigi che un giorno in un palazzo di Milano nei piani alti si è accorto che c'era una specie di elicotterino che lo stava spiando e lo stava filmando. Dice, cosa sta accadendo? Sta accadendo, comincia a essere regolamentata da un punto di vista, poi un altro punto di vista, ad essere sempre più sperimentata nelle sue applicazioni massime, la tecnologia del drone. Nasce come un giocattolo, pochi appassionati facevano girare questi piccoli apparecchi per volare, poi hanno cominciato a pensare che potevano essere utili per molte cose. Potevano essere utili innanzitutto per bombardare, per spiare obiettivi militari, quindi è tutto un impiego bellico, ma l'impiego civile è ancora più affascinante. A Roma ci sono agenzie che forniscono servizi fotografici per matrimoni che danno anche la chance, la possibilità del punto di vista del drone, quindi gli sposi visti dall'alto. Ci sono fantastiche riprese di città italiane viste dall'alto, viste con questo piccolo elicottero che sorvola la città e quindi lascia immagini. Ma come questo può diventare anche uno strumento di investigazione giornalistica, uno strumento di ampliamento delle possibilità di fare il racconto della realtà che dovrebbe fare ogni giornalista? Beh, di questo vogliamo parlare oggi. 800 24 00 24, se siete appassionati di droni, se già siete di quelli che usano droni, costruiscono droni, si pongono il problema della regolamentazione dei droni, questa oggi è la vostra giornata. La Polizia Municipale di Torino è all'avanguardia in Italia perché è la prima ad usare sistematicamente i droni. Equipaggiati di telecamera, questi congegni volanti aiutano gli agenti a smascherare i ladri d'auto o gli spacciatori di droga. I droni volano ad un'altezza massima di 150 metri e raggiungono i 50 km orari di velocità. Strumenti polivalenti possono essere utilizzati non solo per la pubblica sicurezza, ma anche per scopi di protezione civile, per la ricerca di persone scomparse, per monitorare frane o per individuare discariche abusive o altri pericoli per l'ambiente. Le attività del drone possono essere seguite anche dalla sala operativa della polizia. Gli agenti sono così in grado di tenere sotto controllo più efficacemente terreni accidentati o corsi d'acqua, filmando più da vicino rispetto a quanto potrebbe fare un elicottero. Il congegno funziona anche di notte con l'ausilio di una telecamera termica o a infrarossi, ma ci sono ancora alcuni limiti al suo utilizzo. Impossibile farlo volare in caso di pioggia, neve o forti raffiche di vento, e la batteria si scarica velocemente e non tiene per più di mezz'ora. Comunque questa tecnologia è in costante evoluzione e a Torino sono fermamente convinti che... Specifico a chi mi ha ascoltato l'inizio di questa trasmissione, soltanto io nel mio studio sentivo la trasmissione raddoppiata, con l'ascolto per il pubblico era normale, quindi avrò fatto la parte del rimbecillito, ma obiettivamente quando uno sente una cosa in cuffia è dato di pensare che il mondo che lo ascolta sente esattamente come lui. Non era così, io sentivo la trasmissione raddoppiata, era impossibile orientarmi in quello che avevo in ascolto e pensavo fosse anche per chi mi ascolta. Luciano Castro, buongiorno. Buongiorno. Luciano Castro è un giornalista e presidente di Roma Drone. Io dico, fra l'altro, che a Roma si sta muovendo un movimento molto interessante di pensiero, addirittura l'Università Roma 3 ha assegnato la prima borsa di studio per ingegneri che lavorano sui droni, quindi è qualcosa che sembra in realtà muoversi nella più isolata avanguardia, ma già un fenomeno studiato che nelle università comunque è già materia di disciplina. Ma come può essere associato all'idea di giornalismo il drone? Lo è già, a dire la verità. Lo è già negli Stati Uniti, dove c'è addirittura un'associazione di giornalisti che si riuniscono e che utilizzano i loro droni in una fase ancora anche negli USA di deregolamentazione. Ci sono alcuni stati che l'hanno proibito per motivi soprattutto afferenti alla privacy o alla sicurezza del volo, in altre situazioni invece i droni sono già un supporto, diciamo un gadget tecnologico nuovo per i reporter. Come vengono usati? Poi parliamo anche della situazione in Italia, quali sono le regolamentazioni e limitazioni, perché anche all'inizio è nata a noi come una sorta di giocattolo, si poteva acquistare, costruire e usare, poi ho cominciato a pensare che per avere un drone e pilotare un drone ci vuole un permesso, ci vuole un riconoscimento, non tutti possono farlo perché si può fare qualunque cosa con il drone. Le autorità aeronautiche un po' in tutto il mondo, Italia compresa, si sono trovate impreparate, se si può dire, a questa esplosione della disponibilità di queste macchine volanti sofisticate da parte del grande pubblico. Fino a pochi anni fa tutto ciò che volava era ovviamente facilmente gestibile e restavano poi gli aeromodelli. Questi assomigliano a aeromodelli, ma in effetti sono molto sofisticati, vengono gestiti grazie al GPS, possono essere pilotati anche a distanza, sono abbastanza grandi e poi soprattutto hanno a bordo, possono avere a bordo una fotocamera, una telecamera e poter riprendere immagini ad altissima risoluzione. Ecco, dammi qualche misura, diciamo, in che raggio si può muovere un drone e diciamo quanto può prendere, filmare, fino a che altezza? Ma quando si dice droni si parla di macchine molto diverse, si parla di macchine da macchine di plastica del valore di poche decine di euro che possiamo tenere nel palmo di una mano e sono in effetti dei piccoli giocattoli ma che chiamiamo droni, fino a parlare, l'hai accennato nell'introduzione, alle grandi macchine sviluppate per motivi di intelligence e per le attività militari come il Predator, che è in servizio anche nella nostra aeronautica militare, che viene pilotato da degli ufficiali che sono dentro uno shelter ad Amendola in provincia di Foggia, ma vola sui cieli dell'Afghanistan o nelle più remote così latitudini del mondo. Quindi la distanza fra l'operatore e il drone dipende molto dalla tipologia della macchina e dal suo utilizzo. Nell'utilizzo di cui stiamo parlando, cioè in quello giornalistico, stiamo parlando di una distanza visiva, cioè il giornalista che potrà utilizzare il suo drone dovrebbe poterlo vedere e poterlo pilotare, quindi però riuscire ad avere un occhio lontano da sé in zone che potrebbero essere o inaccessibili o pericolose, pensiamo agli inviati in zona di guerra. Ecco, facciamo anche altri esempi, diciamo, più legati a una realtà quotidiana. Io potrei seguire una manifestazione nelle sue fasi senza starci dentro, mandandoci sopra un drone. Potrei entrare, non so, in un giardino dove si svolge un incontro al vertice molto privato e guardare con il drone chi è e chi non è. Potrei andare a casa di personaggi noti e famosi, se io fossi un giornalista di genere gossiparo, che è un genere comunque riconosciuto, sono giornali che di questo appunto hanno la loro ragione editoriale, quindi sarebbe per me facilissimo andare a vedere nella piscina di quel divo, al matrimonio di quell'altro personaggio al quale non sono stato accreditato, o entrare in casa di qualcun altro ancora di cui voglio immagini assolutamente esclusive. Si apre anche il margine di controllo deontologico, immagino. Ci si pongono nuove domande? Naturalmente sì, c'è tutto un discorso sull'etica e sulla privacy che andrà affrontato e che affronteremo in una conferenza che svolgerà proprio a Roma il prossimo 8 ottobre nel ciclo Roma Drone Conference, che parlerà di drone journalism. La privacy è uno dei temi cruciali dell'utilizzo dei droni a fini giornalistici, come lo è anche l'aspetto delle autorizzazioni. Naturalmente non è possibile far decollare un mezzo volante ovunque e comunque, per esempio la città di Roma in teoria non si può far volare nulla che non sia autorizzato per ovvi motivi di sicurezza, e questo in tutte le grandi città, in tutte le zone controllate con un gran numero di popolazione. È chiaro che si può fare con un drone tutto ciò che tu dicevi e anche molto di più. Faccio un esempio recente che tutti noi abbiamo seguito in televisione, quando dopo tanta attesa e tanto parlarne la Costa Concordia è partita dal Giglio e ha fatto rotta trainata dai rimorcatori verso la Liguria. Quelle immagini della Concordia che lasciava l'isola del Giglio, mandate in onda da tutti i network televisivi del mondo, o immagini aeree, erano state tratte da un drone. Questo naturalmente, io l'esempio l'ho fatto l'altra volta, impone allo stesso tempo anche molto autocontrollo, come nessuno di noi di fronte all'idea di potersi prendere una notizia si tira indietro di fronte, magari come succedeva una volta, a scavalcare un cancello, entrare in un giardino, rimanere appostato giorni interi in un posto strategico per magari rubare una foto. Io adesso dal momento dove sto facendo la trasmissione da Piazza Indipendenza con un drone potrei facilmente, non so, arrivare sopra il Quirinale, andare verso Palazzo Chigi, potrei vedere nel cortile della camera se volessi, capito? Quindi questo, se per me fosse importante da un punto di vista della notizia in questo momento, lo potrei far partire e sfido chiunque a intercettarlo nel tempo che vado e faccio il servizio. Siamo in un momento, diciamo, di zona grigia in cui tutto può accadere, tutto può succedere. È una zona grigia, ma non tanto, perché c'è un regolamento preciso che è stato definito dall'ENAC, che è l'ente pubblico dell'aviazione civile, che ovviamente ha l'onere e l'onore di dover definire i regolamenti per tutto ciò che vola. Questo regolamento prevede delle richieste e autorizzazioni stringenti che dipendono sia dalla sicurezza, quindi dalla sicurezza di chi opera e di chi naturalmente è sotto questi droni che operano, sia naturalmente anche dalla gestione del traffico aereo rispetto agli altri mezzi che utilizzano i nostri cieli. Diciamo che quello che tu hai descritto è fattibile, ed è fattibile anche adesso. Lo dico come paradosso, naturalmente. No, certo, è fattibile a un costo anche relativamente ridotto, perché sono macchine che possono fare un buon lavoro, che costano anche poche centinaia di euro, per non parlare però di macchine da migliaia e migliaia di euro per attività di tipo professionale e televisivo. È anche vero però che al momento, se una persona, anche un collega, svolgesse un'attività di questo genere e avesse lo schidibizzo di sorvolare una zona come quella che tu hai individuato, potrebbe rischiare di essere denunciato. Ci fermiamo un istante, devo dare le informazioni del traffico per farti capire il livello di percezione del pubblico medio rispetto a quello di cui stiamo parlando. Dice: ma che i droni, facciano una trasmissione sui congiuntivi, ogni cazzata tecnologicamente avanzata la bevete tutta ad un fiato, fate altro che drone journalism, parlate dei congiuntivi, sì, come se l'uso esatto del congiuntivo, che in realtà è una norma transeunte, il linguaggio cambia, il linguaggio si modifica, il linguaggio non ha nulla di regola scritta eterna, se no oggi direi parole usate nell'italiano ottocentesco nessuno mi capirebbe. Ecco, in realtà stiamo toccando qualcosa di molto importante: la tecnologia che fa parte dell'umanità modifica completamente, allarga il campo visivo comunque di chi deve raccontare la realtà. È molto più importante del congiuntivo, credetemi. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo cercando di far capire il concetto, che è in evoluzione, nulla di determinato, fisso e chiuso, del giornalismo con i droni. I giornalisti oggi, come hanno imparato a fare un pezzo e pubblicarlo online, come hanno imparato a fare un breve filmato, a fare una foto, ad usare i loro strumenti individuali per avere una presa diretta sulla realtà, dovranno cominciare a capire anche che esiste la possibilità di prolungare il loro punto di vista attraverso il drone. È tutta una materia da definire, da stabilire, da normare, però dal momento qualcuno lo fa, lo sta facendo, lo sta sperimentando, mi arrivano telefonate di ascoltatori che vedono droni attorno a casa loro, se ne vedono molti a Milano, ma se ne vedono anche a Roma, quindi qualcuno li sta usando, li sta sperimentando. E poi io volevo fare qualche domanda proprio di tipo tecnico, perché sono quelle che, le curiosità che vengono a me verranno anche a chi ci ascolta. Gabriele Santiccioli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. È presidente di FlyTop, che è l'azienda che si occupa della produzione, fornitura, addestramento all'uso dei sistemi di pilotaggio remoto per applicazioni civili e professionali. Quindi voi vi occupate anche di droni da questo punto di vista? Assolutamente, siamo un'azienda aeronautica tutta italiana con sede in Roma. Produciamo, progettiamo, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Mi piace molto chiamarli sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con l'acronimo SAPR. Sì, però droni ormai capiscono tutti. Esattamente, in quanto i droni nel passato erano aerobersagli, per cui diciamo che questi aeromobili, veramente aeromobili, perché come diceva prima il dottor Castro, che tengo a salutare e a ringraziare soprattutto per tutto l'impegno. Andiamo al punto, poi vi ringraziate. Aeromobili a pilotaggio remoto perché devono essere ad oggi effettivamente considerati aeromobili a tutti gli effetti. Però io posso venire da lei, comprarne uno, devo portare una licenza, qualcosa, o posso acquistarlo? Lei può venire da noi, impegnarsi ad acquistare un aeromobile a pilotaggio remoto, quindi un drone, chiamiamolo questa mattina drone. Lei acquista un drone che può essere un multirotore, un'ala fissa, quindi diciamo che può essere a forma di multicottero o di aeroplano, ma non potrà utilizzarlo come si diceva prima, sostanzialmente. Ma io me lo posso portare a casa o devo aspettare di farle vedere la licenza? Allora, con un'azienda come la nostra, quindi che è nel mondo aeronautico da sempre, non lo può portare a casa perché noi non glielo vendiamo. Però voi siete seri, ma io immagino che se volessi un drone in mezz'ora me lo compro da qualcun altro. Lei si ferma ormai anche al supermercato, abbiamo visto anche su catene commerciali molto note. Ma sono quelle dei cinesi, sono giocattolini? Sì, giocattolini anche da 1.000-2.000 euro, sono liberi. L'esempio che io faccio, guardi, è calzante, è velocissimo, è un esempio semplice. Io posso acquistare un coltello al supermercato, portarlo a casa e affettarci il pane. Posso acquistare lo stesso coltello e utilizzarlo per altri scopi. Ma anche una motosega dal ferramenta, ci può stagliare a pezzi la moglie. Un martello, un chiodo, un taglierino semplicemente, qualsiasi cosa. Quindi è il buon senso, quello che si chiamava una volta, lei parlava dell'Ottocento, del linguaggio e quant'altro, io la seguo spesso. È il buon senso del buon padre di famiglia, quindi in realtà c'è oggi una norma che vi dico benissimo. Quindi è un reato, se io faccio girare un drone su Roma senza nessun tipo... È un reato penale, oltre che amministrativo, è un reato molto pesante. E questo non è importante perché... Non c'è l'applicazione della norma, attenzione, c'è una circolare dettata da ENAC, ma non c'è l'applicazione, a breve ci sarà l'applicazione, speriamo prima che succeda. Le faccio un esempio, con gli esempi si capisce meglio. Io metto a caso che sono un giornalista senza etica, vado al supermercato, mi compro il drone, dico oggi sai c'è una riunione importante a Palazzo Chigi, nel cortile voglio dire chi c'è, lo faccio partire da qui dove sono e cominciano a vedere diciamo le guardie davanti a Palazzo Chigi che c'è il drone. Cosa fanno? Non è che lo buttano giù con la lancia, i lancieri di Montebello, che fanno? Allora, non lo buttano giù, se è una manifestazione importante, quindi un evento molto importante, sicuramente le nostre forze armate avranno messo in atto dei sistemi che conosciamo bene, che il più semplice è il jamming, cioè possono prendere, me lo disturbano e me lo fanno cadere, lo fanno atterrare. Noi abbiamo fatto degli interventi in Iraq con i nostri sistemi, produciamo anche sistemi professionali per ambito militare e abbiamo fatto degli interventi in Iraq, la NATO ci ha preso un drone nostro militare, un drone importante, e l'hanno fatto atterrare nella pista NATO per fare delle verifiche. Quindi diciamo, se sono attrezzati, e sono attrezzati, mi sembra aver capito, anche in Italia, possono intercettare e si impossessano del comando del drone e se lo prendono. E a quel punto rintracciano anche il proprietario, probabilmente. Rintracciano il proprietario, le dico brevemente perché ho visto che è un programma molto molto dettagliato e quindi è importantissimo approfondire. ENAC distingue il territorio nazionale in due aree, aree non critiche e aree critiche. Qual è l'area critica? Bene, l'area critica sono tutte quelle aree dove ci sono infrastrutture, per infrastrutture parliamo di strade, aeroporti, ferrovie, fabbricati, viabilità in genere e assembramenti di persone. Quindi nel giornalismo e le aree non critiche tutte le altre. Lei in Italia mi insegna che non esiste un punto del territorio nazionale dove non ci sono persone o fabbricati o strade sottostanti. Nel giornalismo, proprio nel caso specifico, Il drone verrebbe impiegato e viene impiegato. Dove c'è gente, chiaro. Dove sennò... c'è gente, dove immagini poter elevare la testa, gli occhi soprattutto del giornalista che deve descrivere la realtà più o meno. Io vorrei farmi il giro di tutte le terrazze di Roma la sera, se volessi capire che succede. Il problema è questo, allora, però non posso farlo. Aziende come Flytop, e ce ne sono molte in Italia, di veramente aziende ben fatte, stanno e stiamo tutti quanti riuscendo ad ottenere delle autorizzazioni da parte di ENAC, che ha il controllo di questa attività, nelle quali stiamo raggiungendo l'opportunità di poter sorvolare porzioni del territorio nazionale per aree non critiche, quindi dove c'è la campagna, il ghiacciaio. Quindi diciamo c'è ancora un bel cammino da fare, che se non è che possiamo fare dei corridoi aerei sulle città per far passare i droni. Assolutamente no. In questi giorni stiamo proprio lavorando con ENAC per far sì che a Roma, in Italia, comunque nelle grandi città italiane, con degli accorgimenti che sono di tipo aeronautico, di tipo meccanico, di tipo fisico ed elettronico. Ora non mi spingo oltre troppo nella tecnologia. Sì, perché anche per la sigla ci sta, però abbiamo capito che è un argomento, ci torneremo. Bisogna cominciare a regolamentare il traffico dei droni, perché ce ne sarà molto in futuro. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Valerio Rocchetti e a Fabrizio Intonti. A domani.